Ciao, buongiorno, sì, sento bene. Eccoci qua, iniziativa che ha un titolo eloquente, direi. Tu in che recinto stai, se non sbaglio, no? Sì, tu in che recinto sei? Si farà sabato 4 dicembre al Forte Prenestino a partire dalle 6 del pomeriggio. E diciamo che è un'iniziativa, insomma, che come si vede sul manifesto, cerca di individuare una serie di dispositivi di disciplinamento, di controllo nell'attuale crisi economica e quindi nella gestione di questa in maniera autoritaria. Nella nostra riflessione c'è stata la categoria di campo come che abbiamo preso come, diciamo così, punto di riferimento, e anche in relazione a tutta una serie di terreni su cui appunto questa categoria viene applicata. Nel corso della preparazione di questa iniziativa abbiamo, insomma, parlato, e saranno presenti poi i compagni dell'Aquila, i compagni di Tersigno, ci sarà, insomma, tutta una discussione sui CIE, sui carceri, campi Rom, lo stadio, Facebook, tutti i temi che sembrano distanti l'uno dall'altro, ma che in realtà diciamo abbiamo visto che, diciamo, sono tutti attraversati dalla logica del campo e da una gestione fatta attraverso uno stato d'eccezione permanente. E quindi ecco, all'interno di questi vari temi ci saranno una serie di relatori che, insomma, cercheranno in ognuno di questi di tirar fuori, di mettere in luce il dispositivo di controllo, e soprattutto, diciamo, quello che volevamo mettere in luce è il fatto che questi dispositivi di controllo in realtà hanno una loro funzionalità economica, cioè producono profitto fondamentalmente. C'era quello, cioè tutti questi sono ambiti molto diversi, insomma il tentativo è quelli di leggere anche luoghi fisicamente diversi o distanti tra loro, ma anche appunto fenomeni da loro sotto la stessa, insomma, sotto la stessa lente di lettura. C'è quella famosa shock economy, no, di cui parla, esatto, Naomi Klein, che almeno in due delle vicende affrontate o di cui si parlerà sicuramente rivelabile, ovvero sia la Campania sia l'Aquila, ovvero l'idea, spunto, che sugli shock sia emotivi sia ambientali sia economici poi si possa fare profitto. Guarda, c'è stato un'iniziativa molto bella in cui, vabbè, tante volte è capitato, insomma, che i compagni dell'Aquila ci raccontassero, non solo i compagni, insomma, le popolazioni dell'Aquila, ma abbiamo visto anche tanti servizi video in TV, eccetera, dove ci hanno raccontato di come si viveva nei campi, no? Quindi appena c'è stato il terremoto abbiamo visto che, insomma, è partita tutta un'organizzazione per la quale c'erano una serie di tante migliaia di persone che, completamente normodotate, che fino al giorno prima si erano occupate in maniera totale dei propri cari, delle proprie mansioni nella vita, eccetera, e che dal giorno dopo neanche potevano più scaldarsi il latte perché era un'attività che era delegata ai Boy Scout o alla Protezione Civile. La vita nei campi, che era appunto il dover presentare un documento per uscire o per rientrare ogni volta da dentro un campo, l'alza bandiera la mattina, quindi questa visione, insomma, quasi questa gestione quasi militare delle persone, diciamo ospedaliera, proprio l'idea proprio di ospedalizzare una popolazione invece di farla partecipare alla ricostruzione, ma anche alla ricostruzione della propria vita e di chi gli sta attorno. Esattamente, quello è un meccanismo di disciplinamento che insomma, se andiamo a scorrere indietro nel tempo, ritroviamo in Sorvegliare e punire di Michel Foucault, che è un libro del 75, ma che spiega come appunto lo stesso tipo di organizzazione sociale viene applicato a partire dalla fabbrica, viene applicato agli ospedali, alle scuole, all'esercito, eccetera, eccetera. Crisi, per noi crisi vuol dire in qualche modo, in greco vuol dire ridefinizione, quello che sta avvenendo attraverso durante questo periodo di cosiddetta crisi economica è proprio questo, è una ridefinizione dei rapporti sociali, è una ridefinizione dei rapporti di forza tra capitale e lavoro, e questa ridefinizione, che è diciamo spinta soprattutto da quello che riguarda il capitale, è una ridefinizione anche delle modalità di vita, delle modalità di esistenza, delle modalità del funzionamento delle relazioni sociali, e quindi è pervasivo di sé diciamo in tutti, in maniera capillare all'interno della società. Ed è proprio questo, cioè oggi siamo di fronte diciamo in questa fase di neoliberismo, siamo di fronte a una ridefinizione dei rapporti sociali che si fondano su nuove forme di disciplinamento e nuove forme di controllo. Tutto questo al di fuori di una logica, diciamo, di mediazione che c'era nel precedente sistema, che era quello keynesiano fondamentalmente, dove si era arrivati a un intervento dello Stato attraverso il welfare state, attraverso il fisco, nel riequilibrio, diciamo così, dei rapporti di forza tra capitale e lavoro. Negli ultimi 30 anni abbiamo visto che c'è stato uno smantellamento, una riduzione, un dragare continuo di risorse dal lavoro verso il capitale, e questo chiaramente è arrivato a un momento in cui oggi, come abbiamo visto pure per esempio a Brescia rispetto alla vicenda degli immigrati, non c'è più una mediazione, cioè ti dicono no, questo non è possibile mediare su questo, quindi o è così oppure diciamo c'è un livello repressivo, un livello di non accettazione delle istanze sociali di base. Ci saranno anche gli attivisti, no, dei comitati per la salute di Terzigno, se non sbaglio. Esatto, saranno presenti anche loro in un'iniziativa che abbiamo fatto. Siamo rimasti molto colpiti perché ci siamo trovati immediatamente in sintonia proprio nel momento in cui hanno parlato della logica del campo applicata alla loro situazione, in particolare sul fatto che c'è una gestione diciamo della vicenda è basata sull'emergenza e sullo stato d'eccezione permanente. Come si lega? Si lega per il fatto che l'Italia, diciamo, è proprio una nazione in cui, a partire dalla fine dell'ultimo movimento insomma rivoluzionario per la trasformazione, che è quello degli anni 70, da quel momento sono state introdotte tra il 75, il 79 e l'82 una serie di leggi nella giurisprudenza che hanno portato a uno stato d'eccezione che si protrae fino ad oggi, cioè è finito un periodo, diciamo così, una fase rivoluzionaria, insurrezionale, all'interno della quale lo Stato si è dotato di una serie di strumenti propri per poter rispondere e mantenere, insomma, evitare di far mettere in gioco il suo potere. Finito quella fase, questo Stato non ha ritirato quei provvedimenti eccezionali e quindi è rimasto senza avere, diciamo, un'amnistia per quegli anni, è rimasto all'interno di una gestione d'eccezione, di emergenza permanente. Questo crea le condizioni favorevoli affinché qualsiasi tipo di emergenza sociale venga gestita attraverso questo tipo di gestione, che all'epoca poteva essere appunto in una fase completamente differente, con elementi diversi, poteva essere appunto l'uso di una serie di leggi, ed oggi è l'uso di una serie di strutture, di una serie di istituzioni come è stata la protezione civile. Mettere in mano i rifiuti alla protezione civile ha voluto dire praticamente rendere la parte esecutiva potente e eliminare completamente la partecipazione delle persone alla risoluzione di questo problema, persone che poi stanno in lotta da tanti anni, anche nel caso di per quanto riguarda la vicenda dell'immondizia a Napoli, dei rifiuti a Napoli, stanno in lotta da tanti anni, persone che da tanti anni fanno la raccolta differenziata, persone che attraverso anche una serie di saperi, così come è successo all'Aquila per esempio, sanno dire e praticare e portare avanti un'alternativa rispetto alla gestione autoritaria, e che vengono completamente messe fuori gioco, vengono messe appunto dentro un recinto e non gli si dà la possibilità di partecipare alla risoluzione dei problemi. Io, a parte questo, io direi, insomma, poi abbiamo per esempio c'è il discorso sui CIE che vedremo molto più in relazione al dispositivo per la gestione della forza lavoro immigrata, e quindi non tanto, diciamo, la struttura orribile in sé, insomma terribile per chi ci finisce eccetera, ma come appunto dispositivo per la gestione di un problema che viene gestito pure con altri strumenti, il carcere chiaramente. E poi ci sono cose estremamente differenti con le quali concluderemo, che sono Facebook per esempio e lo stadio. In particolare su Facebook diciamo che, insomma, appunto anche lì il nostro ragionamento va su tre ambiti fondamentalmente. Il primo, che è quello del campo da cui non si esce, cioè il campo della produzione di profitto. La faccio breve: attraverso la accettazione della policy di Facebook, noi entriamo dentro un mondo dove c'è uno scambio economico tra informazioni e pubblicità, nella quale diciamo tutto quello che viene prodotto dagli utenti di Facebook viene poi sussunto dall'impresa Facebook e utilizzato a fini economici e commerciali, e quindi diciamo gli utenti sono, diciamo, una grande massa di produttori di profitto per l'azienda. Poi c'è un campo che è quello da cui, con una serie di accortezze, diciamo, si può anche uscire, che è il campo del controllo, in quanto, diciamo, abbiamo una sorta di profilazione di ogni utente, abbiamo diciamo una sorta di autodelazione, perché chiaramente la funzione principale è quella di farsi riconoscere, di farsi trovare, e in qualche modo attraverso terzi si può risalire sempre, no? Così come il fatto che ci siano tutta una serie di materiali che magari appartengono a delle persone e quelle persone non sanno che stanno su dentro a quel mondo. Faccio un esempio molto banale, ma per capirsi: se un tuo compagno di classe delle scuole medie ti vuole cercare, mette la foto della propria classe scolastica e tutto il mondo può vedere anche te, anche se tu non lo sai che ci sei, insomma. Quindi non c'è più nessun controllo sulla tua immagine, e questo, insomma, è a detrimento tutto della privacy. E il terzo, dicevamo, si può uscire, e lì ci sarà, insomma, penso il dibattito verterà soprattutto su questo, cioè sul fatto che con una serie di accortezze si può essere anonimi, si può diciamo cercare di sfruttare quelle possibilità, quelle opportunità che ti dà di avere una piazza virtuale enorme in cui far viaggiare le tue pratiche, i tuoi contenuti, insomma. Quindi penso che diciamo il nodo del discorso sarà qua, diciamo, su un utilizzo critico oppure una non accettazione tout court del fenomeno. Il terzo piano, diciamo, che abbiamo analizzato è qual è il contesto sociale all'interno del quale può affermarsi e può nascere un dispositivo di questo tipo. Allora, sull'iniziativa, cioè, tra questi temi c'è una grande mancanza, cioè, ce ne stanno varie, ma insomma ce n'è una che è lampante ed è il mondo del lavoro. Per una questione di onestà intellettuale non abbiamo trattato il tema lavoro, perché il tema lavoro è un tema che va trattato in maniera approfondita, che ha 2000 articolazioni, che pone 2000 problemi, e quindi ci riserveremo, diciamo, di fare un partisan proprio sul tema del lavoro più là, fra qualche mese, insomma. Ok, noi ti ringraziamo, ribadiamo l'appuntamento che è per sabato, giusto? Per sabato, esatto. 4 al Forte Prenestino. In fondo al tunnel ci saranno in funzione poi bar, birreria, cucina e noteria, quindi diciamo alle ore dopo 18, la manifestazione, no? Per l'acqua, venire a Forte a discutere di disciplinamento, controllo e stato d'eccezione permanente, e poi prendere anche un buon bicchiere di vino, penso che sia una bella giornata di impegno, di lotta e di riflessione. Ok, ti ringraziamo. Buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ci vediamo sabato.